brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. La vera fortuna per me è stata nascere nel 1954. Posso così dire di aver attraversato tutti i fantastici decenni di cui ancora oggi si parla con una grande nostalgia. Di fantastico generazionale si è smesso di parlare dopo gli anni Ottanta. Questo significa che io ho fantasticamente vissuto 4 epoche. Poi fine. Ci sarebbe da aprire una lunga parentesi su noi nati nel 1954. Forse siamo stati concepiti sul tavolo di un cucinino di Formica, davanti al televisore acceso con Mike Buongiorno, almeno quelli che sono nati da settembre in poi, compreso qualche settimino. La mia classe elementare aveva 2 grossi manifesti che raffiguravano tutte le varie bombe a mano, sia dell'asse che dei liberatori. Sono quelle che avremmo potuto trovare giocando nei prati o in qualche mucchio di macerie di casa bombardata. A indicarci quella Santa Barbara era sempre un nostro coetaneo, in pantaloncini corti, che si reggeva su una stampella perché al posto della gambina aveva il triste moncherino. Un ordigno come questo ha causato le mie mutilazioni, non toccatelo, chiamate subito i carabinieri. Altre ancora erano più splatter, facevano vedere proprio l'esplosione, con il bambino che zompava in aria e poi mutilatino che piangeva. Gli anni 70 furono una vera chiavica. Non cercate spunti romantici in quel freddo decennio di domeniche a piedi, maglioncini attillati color verde pisello, pantaloni a zampa d'elefante e compagni di scuola a teste di cazzo che ti spiegavano cosa fosse la rivoluzione. I miei ci mandarono a scuola dai salesiani per evitarci la contaminazione con il 68 e fecero bene. Fu una vera scuola di vita, come può esserlo la legione straniera. Ecco, sono arrivato a 54 anni di un ragazzo del 54. Nessuna guerra, nessuna epopea da raccontare, nessuna identità generazionale. Nel 68 avevo solo 13 anni e sognavo il motorino Minarelli 50 da cross. Nel 77 pensavo solo a entrare dalle finestre del piano terra della casa della studentessa Corso Garibaldi a Perugia, prima ancora che le studentesse fuori sede cominciassero a sgozzarle. Questa di stamattina vuole essere la macchina dell'invenzione della nostalgia. Io ho inventato la nostalgia dei miei anni, anni particolari, anni connotati dalla possibilità di avere una diversificazione della nostalgia. Quello che oggi mi sembra di osservare è che la nostalgia è diventato un bene acquistabile all'hard discount, ma forse la mia è soltanto un'impressione, chi ascolta potrà contraddirmi. Io questa mattina metterò continuamente questa musica che avete sentito in sottofondo, che vuole essere lo strumento, il tappeto di appoggio alle nostalgie. Voglio che le persone che ascoltino chiamando all'800240024 riescano a sintetizzarmi la nostalgia dei loro anni. È possibile sintetizzare tutta la propria vita in 2 minuti, semplicemente appoggiandosi a dei ricordi concreti, ricordi visivi, olfattivi, cose sentite dire, il respiro dell'epoca che si è vissuta. I miei ricordi erano fatti di azioni concrete, di persone incontrate, di epopee generazionali attraversate, lambite, che non lasciano poi altro segno che un ricordo. Altre generazioni, persone nate dopo di me probabilmente, hanno la loro nostalgia che appoggia su supporti di diverso tipo. Quindi vado avanti nel mio esperimento e chiedo a Emiliano Monreale, classe 1973, di appoggiare sul nostro tappeto sonoro la sua macchina dell'invenzione della nostalgia. Io sono nato nel 1973, appunto, e quindi cresciuto in quegli anni Ottanta, che tu dicevi hanno segnato la fine dei ricordi generazionali, e direi dei ricordi generazionali comuni, perché da un certo punto di vista invece è stato l'inizio della nostalgia, cioè l'inizio della nostalgia che dilaga adesso, l'inizio della nostalgia di massa, di quella impastata di televisione. credo che la data decisiva non sia nel 68, nel 77, ma forse l'inizio della televisione commerciale in Italia. È quello che davvero comincia a inserire nelle teste delle generazioni successive un nuovo modo di pensarsi, per cui i ragazzi, i bambini di quegli anni non si pensano più come qualcosa che sta in un posto, che è qualcosa, che fa qualcosa, cioè come degli esseri che si conoscono tra di loro, che vivono in un posto, che hanno memorie generazionali, geografiche, sociali, politiche, ma essenzialmente come piccoli consumatori, piccoli spettatori di televisione, per giunta tutti isolati, nemmeno come gli spettatori del cinema. Ecco, i consumi della tua vita che sono le boe della tua nostalgia. Lì è proprio la televisione dei primi anni, le prime TV private e l'ultima televisione pubblica. Penso a programmi come Buonasera Con, che sono abbastanza spettrali oggi, perché erano le ultime apparizioni dei grandi comici, per cui sfilavano Macario, Fabrizi, Peppino De Filippo, tutti prima di, poco prima di morire. Non so se portasse addirittura un po' rogna questa trasmissione, e però che introducevano la nuova televisione. Goldrake arrivava lì, ricordo ancora appunto un Peppino De Filippo che diceva e mo guardato va Goldrake. Questo era Buonasera Con, il vecchio e il nuovo nello stesso momento. E poi anche le prime merci davvero povere, a metà tra i paesi del blocco socialista e il consumismo americano. Rivederli oggi, c'hanno anche nella grafica quella specie di vorrei ma non posso, quella sorta di povertà luminosa. Penso ai gelati, alle merci, alle merendine, tutte un po' a metà strada, non ancora davvero così pienamente consumiste, perché in fondo c'è ancora il grande padre democristiano, la grande DC che mediava e che cercava con tutta l'ipocrisia di questo mondo di frenare e insieme entrare. Sono pronto a proseguire questo esperimento con chi mi ascolta, che vorrà chiamarmi, vorrà condensare in qualche minuto i ricordi e la propria nostalgia. Perché ho chiamato Emiliano Morreale? Perché ha scritto un libro per Donzelli, L'invenzione della nostalgia, che parla della nostalgia legata a un universo che, anche se ci sono dei punti in comune, delle derivazioni, delle genealogie comuni, molto diverso da quello della televisione e quello del cinema. La nostalgia creata dal cinema, supportata dal cinema, che è quella che è quello che in fondo ha rappresentato il supporto più vivido, più importante delle generazioni che hanno preceduto la mia, era una nostalgia variegata. Ognuno aveva il proprio film di riferimento, il proprio filone di film di riferimento, no? Sì, era molto diverso. Intanto era un'esperienza collettiva e poi era un'esperienza che, questo un po' ci ha disabituato, quelli che vedevano i film come testi, a capirlo. Era un'esperienza che diventava un'altra cosa da quello per cui era nato, cioè vedere un film in Italia, nelle mille Italie che c'erano, era molto diverso vederlo in provincia piuttosto che vederlo in città, e lo si vedeva in un certo modo. Erano sale in cui ovviamente si fumava, in cui si entrava in qualunque momento della proiezione, per cui il film si vedeva più volte, due, tre volte, in cui c'era un rapporto strano, per cui il cinema poteva addirittura nei paesi essere qualcosa di non opposto, ma quasi una sorta di continuazione delle tradizioni locali. Ricordo per esempio in Sicilia c'erano i pittori di carretti che a un certo punto sui carretti disegnavano anche, non so, la Giovanna d'Arco interpretata da Ingrid Bergman nel film di Victor Fleming. C'era una sorta di continuità, entrava in qualche modo nel mondo dei cantastorie o delle tradizioni locali o dei teatrini locali. Poi diciamo il fatto che il cinema, a volte oggi il cinema di prima visione non c'è. Il cinema, soprattutto in provincia, la sala cinematografica era un'uscita dal mondo, un luogo di isolamento. I primi amori, le prime pomiciate, le prime mani fra le cosce erano nelle file ultime dei cinepidocchietti con il cappotto addosso, quindi si socializzava, si andava in 3-4 coppie al cinema, si entrava alle 4, magari si usciva alle 8 e lì succedeva di tutto, accadeva di tutto, quindi le esperienze erano molteplici. Il film era la colonna di accompagnamento anche ad altri tipi di scoperte e di relazione. Io però, visto che Abbiamo iniziato parlando dei ricordi di un ragazzo degli anni 70, legati a qualcosa che per me già fa parte ormai dell'età adulta. È una grande emozione sentire una persona che nasce come supporto emotivo con quello che già io vedevo ormai, appannaggio dei miei fratelli. Faccio due riflessioni. Prima, mio figlio a 14 anni prova nostalgia struggente fino alle lacrime per i videogame di Lara Croft di prima generazione. Sono riuscito tramite eBay, tramite amici e melogmani generosi, a ritrovargli i primi videogiochi di Lara Croft e li guarda con un senso di commozione enorme, anche se si tratta di giochetti di 3-4 anni fa. Nota il cambio della grafica, il cambio della struttura e dice: vedi com'erano belle le prime storie di Lara Croft. Oggi sono molto più belle, ha una grafica migliore, vanno molto più veloci, servono dei computer molto più veloci per farli andare, ma allora vedi le storie com'erano belle. Io devo fare dei grandi sforzi di adattamento del software, bisogna scaricare dei piccoli programmi per far rigirare i vecchi giochi sui nuovi computer. E poi l'idea delle omologazioni dell'immaginario televisivo, il fatto che oggi non esistano picchi, non esistano diversità, ci si trova a parlare dei linguaggi alieni quando si parla di esperienze personali che non sono condivise. Fa pensare a ricordi indotti, a quella sorta di banca dati dei ricordi che veniva messa, downloadata nei replicanti di Blade Runner, dei lavori fatti in carne, e faceva sì che loro si illudessero di aver avuto una vita con dei ricordi. Quei ricordi erano semplicemente dei dati che erano stati riversati nel loro cervello. Guarda, sono io con mia madre. Sì. Ricordi all'età di 6 anni. Tu e tuo fratello entraste in un edificio vuoto per la finestra della cantina e giocavate ai dottori. Lui ti mostrò il suo e quando toccava a te ti spaventasti e fuggisti. Te lo ricordi? L'hai mai raccontato a nessuno? A tua madre, a Tyrell, a nessuno? Ricordi il ragno in quel cespuglio davanti alla tua finestra? Il corpo arancione, le zampe verdi. Lo guardasti fare la rete tutta l'estate e un giorno ci vedesti un grosso uovo. L'uovo si schiuse. E centinaia di ragnetti ne uscirono e la divorarono. Innesti. Non sono ricordi tuoi, sono di qualcun altro. Della nipote di Tyrell, forse. Gino, buongiorno. Buongiorno. È pronto a raccontare anche lei i suoi innesti o i suoi effettivi momenti importanti che hanno rappresentato l'invenzione della sua nostalgia? Innanzitutto un saluto a tutti. Poi volevo dire che... Aspetti, deve parlare sulla musica però, perché la musica aiuta a evocare il ricordo. Lei deve velocemente dire quali sono i punti focali attraverso i quali racconterebbe la sua vita, le cose che l'hanno toccata. La mancanza di avere la possibilità di fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento come adesso. Io vivevo quando ero un bambino vicino al mare, 7 chilometri, 8 chilometri, ma dovevamo prendere il treno per andarci. La televisione è vista dai genitori e il canale scelto dai genitori. Qualsiasi cosa, anche un libro, bisognava avere il permesso dei genitori per poterlo leggere. Negli anni 70 io avevo 10 anni, 15 anni e la mancanza ha acuito in me la voglia sempre di avere qualcosa in più e di sognare l'America, sognare i viaggi, sognare una televisione mia, sognare di andare al mare quando volevo io. Adesso sono un medico, ho 43 anni, ho tutto, vivo bene, ho un buono stipendio. Mi manca la mancanza. Andrea, buongiorno. Buongiorno. 30 anni, pronto? Prontissimo. Inventi la sua nostalgia, vada. Io sono nato nel 79, quindi giovane. Diciamo che la nostalgia più grossa è quella dell'amicizia, quella che una volta si costruiva lentamente, quella che una volta, dai, passa da caso oggi, quella che una volta ci vediamo stasera, non lo so, se scendo bene, se no ci vediamo domani. Oggi chiamami, telefonami prima di arrivare. Stasera ci vediamo, dai, vabbè, ci sentiamo, non è un problema. Amicizie molto più semplici da costruire ma difficili da mantenere, quindi non amicizie. La nostalgia di un'amicizia vera, quella che non è nata a 15 anni perché a 15 anni si è più propensi, quella che è nata a 15 anni perché 15 anni fa era molto più difficile diventare amici e molto più semplice mantenerli. Grazie. Emiliano Morreale, prime due testimonianze, ma penso ce ne saranno altre, molti stanno telefonando. La musica, ricordo, su cui appoggiava Nostalgia, è scritta, composta e suonata da Riccardo Alemanno e fa parte di una nostra impresa comune, che qui non pubblicizzerò, però sarebbe di cattivo gusto. È formidabile per suscitare ricordo, vedi, basta poco, basta un'idea, una canzone, una musica comune, un tappeto comune e ricordi scaturiscono. Come vedi però, in entrambi i personaggi che hanno chiamato, generazioni diverse, è preponderante l'effetto del mediatore elettronico della nostalgia. L'uno rimpiange momenti in cui ci si incontrava senza telefonarsi, l'altro la televisione imposta. Finalmente per lui la libera scelta del telecomando e l'affrancamento della sua schiavizzata fanciullezza. Una televisione tutta per me, aveva detto qualcosa del genere il primo ascoltatore. Questo è fondamentale, cioè comunque la nostalgia, qui distinguerei fra la nostalgia e la memoria, cioè la nostalgia è in qualche modo l'alone che accompagna la memoria, la scia, che è quello che io ho studiato, cioè non tanto il fatto che uno ricordi delle cose piuttosto che altre, ma la carica, l'intensità che accompagna questi ricordi, cioè proprio quello la cosa importante. E la nostalgia, questa carica diventa tanto più forte, tanto più, diciamo, ridondante, fa tanto più eco quanto più è mediata appunto dai mezzi di comunicazione di massa, dalla televisione e dal cinema, e anzi è tutta interna a questo circolo in qualche modo. Anche il fatto che dicevano prima dei ricordi che sono così veloci è ovviamente perché il ricambio delle merci e dei mezzi di comunicazione di massa è così veloce, no? Più che se si devono vendere, è una, come dire, una specie di conseguenza dell'obsolescenza delle merci, per cui una lavatrice prima durava 20 anni, adesso ne dura 2. Ecco. È usa e getta. Anche i ricordi sono così. Una memoria usa e getta, una memoria organizzata sulla velocità di un palinsesto e sulla velocità di cambio con un telecomando il programma televisivo. Melog 2.0. Ed ora un corpo e un'anima. Cantano Wes e Dori Ghezzi. Smettila, è stupido litigare. D'accordo, sì. Wes Dori Ghezzi, Emiliano Morreale, classe 73, che è in studio con me, insomma, non sapeva nemmeno chi fossero, io me li ricordo bene. Wes è morto, questa mattina danno la notizia ai giornali. Quelli che appartengono alla mia generazione non possono che ricordarseli. Era la coppia apparentemente oltraggio al politicamente, cioè oltraggio, ossequio al politicamente corretto e oltraggio ad ogni pregiudizio. Lui è africano, ancora vecchio stile, il look esteriore alla Jackson 5, poi rinnegato, quindi grande testa riccioluta, grande sorriso, sembrava un po' il nero dei telefilm americani, lei bionda, bellissima, candida, cantavano in coppia. Furono riesumati da Sky qualche tempo fa, Non ci lasceremo mai, era il ritornello del lancio dei canali satellitari. Beh, anche loro fanno parte comunque di un ricordo sonoro, di una nostalgia, come tanti altri oggetti che hanno costellato le fanciullezze di coloro che sono nati dal dopoguerra in poi, quindi sono stati lambiti, colpiti in pieno, abbandonati sull'onda lunga del boom economico, e quindi ai primi segni tangibili del benessere loro legano i momenti più felici della loro fanciullezza. Ciao Gianluca, io uno dei ricordi dei giocattoli alla fine più devastanti, perché non mi funzionava mai, erano quei famosi missilini che mi lanciavi in aria, poi a una certa altezza avrebbero dovuto aprire il paracadute e planare a terra. Ti dico, il meno praticamente non mi è mai riuscito. Adoravo giocare con l'ospedale della Playmobil, ma forse il mio preferito restano i Barbapapà. Da bambino giocavo con gli Atlanti, perché erano dei soldatini di plastica minuscoli. Allora, Emiliano Morreale, ricordo che tu sei autore dell'Invenzione della Nostalgia, Donzelli, che è un libro che racconta alcuni filoni di cinema che hanno rappresentato il supporto emotivo di tanta nostalgia. Noi, come vedi, però stiamo soffermandoci su un fenomeno che è molto moderno, la nostalgia legata agli anni della fanciullezza, agli anni dell'adolescenza. In realtà è una cosa che possiamo datare forse nell'ultimo secolo, ma nemmeno, forse gli ultimi decenni. Quando mai un signore nato agli inizi del Novecento ha nostalgia della sua drammatica fanciullezza? Se era disgraziato era uno schiavo, se era di buona famiglia era altrettanto schiavo delle convenzioni e dei rituali familiari. Secondo te c'è una data ipotetica e labile in cui si può segnare questa nostalgia del tempo fanciullesco? Sì, secondo me c'è una doppia data, cioè sicuramente uno pensa che si è sempre avuta nostalgia di quando uno era bambino, non è così, cioè finché non si capisce che esiste qualcosa chiamato infanzia, che esiste qualcosa chiamato bambini, e questo succede diciamo dopo la rivoluzione industriale grosso modo, perché prima insomma quando ne morivano con una mortalità infantile, quindi ne morivano come mosche, non poteva esserci proprio neanche affettivamente questo spazio. Quando ci si accorge che ci sono questi bambini che hanno il loro spazio eccetera eccetera, nasce, e siamo appunto grosso modo al periodo dalle confessioni di Rousseau in avanti, si capisce che si comincia ad avere nostalgia dell'infanzia col romanticismo, con tutte queste cose qui. Questo è il primo inizio, che è la nostalgia moderna. Poi c'è una nostalgia che potremmo chiamare postmoderna, che è quella che avviene nel momento dei media completamente sviluppati, secondo alcuni nemmeno con i media e basta, proprio quando la televisione diventa centrale. Lì è una seconda svolta epocale paragonabile a quella della rivoluzione industriale. Cioè a quel punto diventa la televisione, diventano i mezzi di comunicazione di massa il perno della nostalgia, e a quel punto c'è quasi un crollo del senso storico. Mi spiego, quel primo tipo di nostalgia presuppone in qualche modo nel romanzo di formazione il fatto che il presente e il passato siano legati, non siano spezzati. Io rimpiango qualcosa perché c'è un'idea quasi di decadenza, ma non c'è un salto. Invece la nostalgia postmoderna è nostalgia di qualcosa che non è neanche legato al presente, ma sta lì, è come se fosse un grande magazzino. Lo possiamo paragonare come oggi a YouTube, c'è un grande deposito di immagini che non è legato da un nesso di causa ed effetto al presente, ma sta lì, un enorme deposito di immagini, di esperienze, ma di esperienze di seconda, terza, quarta mano. Guarda, io mentre parlavi te in prima parte della trasmissione mi citavi la nostalgia per gli spezzoni dei vecchi film comici, dei vecchi programmi comici della televisione. Si vede che la tua generazione, la tua formazione, la tua Weltanschauung, visione della vita, ti impedisce di guardare Rai 1 l'estate, ma il palinsesto di Rai 1 quest'estate è stato composto al 90% da un riempiticcio con i vecchi film, le vecchie trasmissioni, quindi c'è una sorta di immortalità di questo supporto. I telefilm di cui parli te, di cui parlo io, che hanno rappresentato le icone fresche della nostra nostalgia, in realtà oggi sono il tessuto connettivo dei canali satellitari dedicati appunto alla riscoperta di quel tipo di epoca. Sì, adesso è il con l'arrivo di internet, dei canali satellitari, tutto questo è diventato potentissimo, cioè Fox Retro, anzi lo chiamano Fox Retro, non ho mai capito perché, dovrebbe essere retro in teoria, però tutti questi canali che scavano negli archivi, lo si è sempre fatto in estate di riempire i palinsesti così, insomma, però adesso è diventato una specie di, come dire, è quasi il mainstream, si potrebbe dire, è quasi, cioè quello è la linea fondamentale della televisione e del cinema. Penso ai remake delle Charlie's Angels, di Starsky Hutch, no? Cioè quello è in qualche modo il mainstream, la cosa che va anche in prima serata, eccetera. E il resto in qualche modo su questa idea di vintage si adatta, cioè anche la pubblicità cerca di vendere le cose in questo modo. Però nota che c'è una necrofilia fondamentale. Stefano Disegni fece una vignetta quest'estate in cui c'era la famiglia che piangeva e qualcuno si toccava pure gli attributi, perché in questo serpentone di vecchi comici e vecchie glorie in realtà si rendono conto che erano tutti morti. Era il più formidabile memento mori della televisione, erano tutti morti o stavano morendo tutti uno dopo l'altro, quindi era una rassegna di fantasmi del passato. Andiamo avanti con l'esperimento che abbiamo proposto al nostro pubblico, e parta il tappeto per la nostalgia e ascoltiamo Nicoletta. Nicoletta. Buongiorno. Io praticamente stavo dicendo appunto alla tua coordinatrice, dicevo, ho nostalgia delle cartoline, delle lettere scritte, adesso tutto virtuale, tutto SMS, che neanche scrivono una parola per intero. Io addirittura ricordo, diciamo, fra le lettere e le cartoline, mi è rimasto impresso addirittura un francobollo che riportava praticamente il semaforo, per dire, no? Quello che è nella nostra memoria mentale e visiva. Quelle piccole cose che magari adesso non si vedono più, è tutto diventato virtuale. Vabbè, il tempo è crudele e la strappa dai suoi ricordi semaforici. Stefano. Buongiorno, io chiamo da Milano, sono del 64, quasi 45 anni. Le mie nostalgie partono da quando piccolino andavo alla fiera degli Obei Obei con mio papà e c'era la nebbia che oggi a Milano non c'è più. E passano attraverso il cortile dove si giocava con i bambini. Per noi la palestra era il luogo dove a scuola si faceva ginnastica e basta. Mi ricordo, passa attraverso la televisione in bianco e nero con due canali più la Svizzera e il sabato sera alle 8 si mangiava in sala per guardare Cacciapensieri, programma di cartoni animali sulla Svizzera. Vediamo se anche nei ricordi di Sergio esiste la televisione, questo supporto indelebile e atemporale di ogni ricordo e di ogni nostalgia. Sergio. Buongiorno Gianluca, io ti sto chiamando da Tirrenia, ora sono in viaggio, faccio il rappresentante. Io sono dell'ottobre del 54, probabilmente sono il più vecchio di fra quelli che hanno già telefonato. No, io sono più vecchio di te. Sono il secondo di 5 fratelli maschi. E posso dirti che tra me, cioè tra il primo che era del 51 e l'ultimo del 62, ci sono degli abissi generazionali. E quindi la nostalgia è un turbinio di nostalgia. E c'è la nostalgia per il primo nudo visto al cinema, Angelica, forse tu lo ricorderai. I giochi che le inventavamo giorno per giorno, dalle figurine alla raccolta, ai tappini, ai famosi tappini circuiti che disegnavamo sulle strade, addirittura potevamo anche stare in mezzo alla strada, tanto non passava mai macchina. Angelica e la sua saga, colpevole del calo di ottrie di un'intera generazione. Melog 2.0. Nell'estate, mi sembra del 72, certe donne hanno cominciato a portare gli zoccoli olandesi, quelli bianchi. Erano stati in Olanda? Non lo so. Però un paio d'anni dopo già non c'erano altro che imitazioni. Il tacco più alto, delle orribili borchie di metallo, e invece erano belli quelli neri, semplici, un po' consumati. Li portavano ragazze con capelli lunghi e biondi sciolti sul pullover, pantaloni blu a tubo e calzettoni rossi. Emiliano Monreale. Nanni Moretti rappresenta una sorta di punto di passaggio in cui nel cinema viene rappresentato un mondo nostalgico, molto datato, molto connotato, che però è già il primo segno tangibile di un universo nostalgico basato su ricordi cinematografici, su ricordi fittizi, sul mondo raccontato da un media. Moretti è stato forse il primo ad accorgersi, e poi attraverso il cinema, che in quegli anni era davvero fuori gioco come mezzo di comunicazione di massa, proprio completamente messo nell'angolo dalla televisione, è stato il primo ad accorgersi nel cinema di un mutamento della sensibilità che andava ben oltre i mutamenti di costume, era un mutamento di profondità. I film di Moretti degli anni 80, mi riferisco soprattutto a Bianca e alla Messa è finita, raccontano anche questo, cioè raccontano la regressione all'infanzia che avviene dopo la fine dei movimenti collettivi, dopo la fine del 68. Quello che ancora 70. Non si chiamava veltronismo, ma che in realtà è quello. Sì. In Moretti è praticamente quello, è veltronismo, ma anche Anima mia, ma anche Cocktail d'amore, no? Fazzismo, sì. Freccerismo, quelle cose lì. Cioè, l'idea di un recupero alto, ironico, delle memorie generazionali basse, pop, però in qualche modo istituzionalizzato, e questa è la cosa, cioè in Bianca queste cose, cioè Gino Paoli, cioè i cugini di campagna, vengono insegnate a scuola, sì. E questa è la cosa fondamentale, cioè non sono un guilty pleasure, come dicono gli americani, un piacere perverso privato, vengono istituzionalizzate. E allo stesso modo, non so, il trash anni 70 del cinema italiano Milano sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia, non so, negli anni scorsi, allo stesso modo gli oggettini di Anna Mia sbarcano a Rai. Non dimentichiamo che però c'è un artista assoluto, ma nella mia visione distorta del mondo, come Tarantino, queste cose le recupera e le porta a rango di reperto storico, le reinterpreta. Ecco, la grandezza del cinema è anche questa, cioè di che questa cosa la si può fare o da un punto di vista di riflessione, cioè in qualche modo smontando o esasperando queste cose. In fondo quella di Tarantino è una specie di filosofi di rimedio nel male, cioè una specie di cura, se vogliamo, omeopatica o di overdose omeopatica, se potesse esistere una cosa del genere, per cui con l'eccesso di questa sensibilità Tarantino riesce a creare qualcosa. Ma invece in realtà il grosso è marketing, ed è difficile spesso discernere dove comincia il marketing e dove comincia l'arte. Moretti queste cose le aveva viste, parodiate negli anni Ottanta in maniera anche, se vogliamo, ambigua su se stesso, nel senso che lui non era che solo biasimasse il fatto che c'era la scuola Marilyn Monroe in cui si insegnava il cielo in una stanza o 10 ragazze per te, ma poi capiva che queste cose in qualche modo struggevano veramente, perché poi proprio in quei film ci sono alcuni momenti, lui a lanciare l'uso delle canzonette anni 60 nel cinema italiano, a rilanciare quest'uso. Il momento più straziante di tutti è quando nella messa è finita i rottami solitari e odiosi, egoisti di una generazione che ha fatto il 68 ballano insieme Ritornerai di Bruno Lauzi. Ma mi scrive su Facebook un'ascoltatrice, dice che in realtà i suoi bambini si sono divertiti un sacco a vedere dei musicarelli che stanno ritrasmettendo adesso in televisione, in cui si dà Tony Renis bambino, l'ho visto. Pensa come diversa la percezione di Tony Renis di Sanremo, Tony Renis legato al grande mondo del potere, Tony Renis ormai quasi considerato una sorta di grande demiurgo dietro le quinte, la canzone italiana. Ho visto un film due o tre sere fa in cui era bambino, ingenuo, cantava canzoni d'amore con la sua bella in montagna e via dicendo. Queste contaminazioni continue, questa sorta di osmosi di un immaginario attraverso le nuove generazioni, allo stesso tempo poi ridà eternità a questi supporti. La nostra contemporaneità sarà raccontata attraverso i musicarelli, attraverso i film di Alvaro Vitali e attraverso la rilettura di Nanni Moretti e di tutto l'immaginario veltroniano. Aurelio, buongiorno. Sì, buongiorno. La breaking news ci porta crudemente alla realtà, che è fatta di ben poca nostalgia, di attenzione e di apprensione per quello che sta accadendo in Afghanistan, ma questo non impedisce a lei di raccontare i momenti più importanti della sua vita attraverso appunto supporti dell'immaginario. Ma sì, perché io la nostalgia mia è che non vedo più i ragazzi costruirsi con le proprie mani i propri divertimenti. Io parlo degli anni inizi 70 fino agli 80, io sono del 62, quindi i miei giocattoli erano il monopattino fatto con legno, fatto da me, andando in cerca dei cuscinetti a sfera nei vari meccanici del paese, oppure fare le pistole col compensato e con l'elastico fatto dalle camera d'aria delle biciclette, oppure fare le freccette per il tiro a segno con i fiammiferi legati con lo spago mettendoci uno spillo e come alette il cartoncino. Tutte queste cose non si fanno più e queste manualità sviluppano molto l'intelligenza, quindi io non vedo più i ragazzini con questa inventiva, sono sempre attaccati al computer, per carità, è un altro tipo di intelligenza, ma la manualità ha fatto veramente l'intelligenza dell'uomo. Emiliano Monreale mette il punto nei suoi ricordi nostalgici su un fatto concreto e reale. Oggi le aree in cui si vende, si spaccia, si produce oggetti di divertimento sono le stesse in cui si producono oggetti da lavoro. In un negozio di computer vedi padre e figlio e comprano la stessa macchina, la stessa PlayStation, che serve sia al padre che al figlio. In realtà il ricordo legato a manufatto era un ricordo che era più personalizzato. Il ricordo legato a un prodotto di consumo che ti segue dall'infanzia fino all'età adulta è più facile che sia un ricordo che permette questa omologazione della nostalgia di cui parlavamo. Sì, queste testimonianze sono tutte un po' a cavallo quasi fra quella che chiamavo nostalgia moderna e nostalgia postmoderna, cioè una nostalgia in qualche modo più concreta, ma vorrei dire più storica, cioè con più il senso del tempo che passa, e invece uno ormai che fluttua liberamente tra le merci e soprattutto i frammenti delle merci, perché è molto legata alla clip, al trailer, al prossimamente, alla sigla, questo altro tipo di nostalgia. Ecco, questi qui, anche perché quelli che ci hanno chiamato sono grosso modo tra alcuni nati anni 50 e 60, sono una buona fotografia di una nostalgia bastarda, potremmo dire, cioè un po' ancora in qualche modo dell'Italia quasi pre-boom, che si avvia a diventare pienamente infatti consumista. Sono reperti rari, perché appartengono, sì, a un momento di passaggio. Sì, infatti li abbiamo sentiti, sono gente che si ricorda, sono ricordi grosso modo degli anni 60, primi 70, e per questo sono in qualche modo molto spesso ricordi misti e di passaggio. Credo che sulla generazione immediatamente successiva, cioè i nati negli anni da metà anni 70 in poi, questa cosa salti abbastanza. Lì ci sono anche delle differenze geografiche, per esempio tra provincia e città, molto forti, o tra regione e regione. Queste differenze tendono a saltare, e adesso tenderanno a saltare anche, credo, tra nazione e nazione, nel senso che le memorie dei programmi delle TV locali o dei presentatori locali o del programma nazionale italiano, che sono le ultime ancore di una memoria in qualche modo localistica, salteranno e diventeranno invece le stesse memorie, non solo in tutta Italia, ma tra un adolescente degli anni 80 italiano e uno francese. Ecco, concludiamo, siamo arrivati alla fine. La mia riflessione, che in realtà forse il punto saliente su cui dovremmo riflettere, torneremo a parlare, è la perdita di localizzazione del ricordo e la perdita di materialità del ricordo. Abbiamo oggi, avranno oggi i nostri figli e i nostri nipoti dei ricordi immateriali e facilmente trasferibili. Potranno scambiarseli semplicemente stando tutti nel loro luogo di origine, luogo di vita. Quindi si perderà anche l'influenza dell'ambiente, del tempo e di altre contaminazioni sui nostri ricordi. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0. 2.0.